E come annunciato, eccoci in voce per parlare delle giornate di domani e domani l'altro. Pronto, ci senti? Sì, salve. Salve, buongiorno. Buongiorno a te. Abbiamo sentito lo spottino, abbiamo cominciato a preannunciare insomma come si articoleranno le giornate del 25 e del 26, insomma, in questa chiamata dai quartieri est di Roma, cominciando dal corteo di domattina. Sì, domani mattina l'appuntamento è alle 9:30, un orario mattutino alquanto, e in una piazza simbolo della resistenza dei quartieri di Roma, insomma dei quartieri appunto di Roma Est, che è Piazza delle Camelie a Centocelle. Lì ricorderemo insomma chi 70 anni fa ha combattuto il nazifascismo e ha perso la vita, o comunque insomma chi è arrivato ai giorni nostri lo sarà presente. E proprio da quella piazza simbolica partirà questo corteo, un lungo corteo che attraverserà completamente Centocelle e il quartiere di Gordiani per arrivare al Prenestino. Senti, sfatiamo un mito, perché ci chiedevano in radio, ma davvero alle 9:30? Alle 9:30 noi saremo lì, perché comunque è importante partire presto, perché insomma appunto il corteo è lungo ed è importante che si arrivi in un orario decente alla destinazione, ovvero al Largo Preneste, all'ex Etnia, per questo atto di riappropriazione, che è proprio un segno simbolico di come vogliamo vivere la giornata del 25 aprile, ovvero non come una commemorazione ma come una liberazione ogni giorno, è quello che vogliamo portare nelle strade dei nostri quartieri e quindi liberare domani il lago dell'ex Etnia, che è un simbolo insomma rispetto a tante vicissitudini che chi vive insomma le dinamiche non solo dei quartieri in questione ma di Roma contrasta ogni giorno attraverso le lotte sociali che saranno quelle rappresentate domani nel corteo. E stiamo parlando appunto dell'area dell'ex Etnia e di questa battaglia che si è rinnovata dopo almeno due decenni, e a partire da ottobre, alla giornata nazionale contro la devastazione dei territori e le nocività, il 12 se non sbaglio appunto, si è rinnovata questa battaglia per difendere quest'area da una speculazione immensa. Si volevano costruire 4 grattacieli a Largo Preneste, in un territorio appunto quello del Prenestino, ma in un quadrante che comprende Casa Albertone, Centocelle, che è il più densamente abitato non solo di Roma ma dell'Europa, e 4 grattacieli da 100 metri. Questa scellerata così speculazione edilizia marcata Alemanno, che era il proprietario Pulcini, è stata sventata con queste mobilitazioni, però l'area è ancora da liberare per renderla quello che doveva essere già dal 2004, un parco per tutti e tutte, che comprende una risorsa naturale unica a Roma, questo lago che nasce appunto dal buco che le ruspe negli anni 90 fecero sulla falda acquifera, e la natura che si è riappropriata del suo spazio, e lo vogliamo insomma liberare e vivere a partire insomma da questo 25 aprile per tutti i giorni a venire. Ed è imminente insomma, perché entro agosto scadono i 10 anni dell'esproprio di quest'area, che appunto è pubblica ma segregata, è circondata da un muro, e dopo 10 anni il proprietario può richiedere la riacquisizione di quella che era la sua proprietà, pagando anche insomma avendo in cambio anche una penale da parte del comune qualora appunto si proceda in questo. Quindi era urgentissimo, abbiamo scelto insomma con le altre realtà sociali del territorio di dare questo segno forte il 25 aprile, ma non sarà l'unico tema, appunto come dicevo verranno rappresentate tutte quelle che sono le lotte sociali per la casa, per il reddito per la, insomma, per quelle che sono le, la dignità, insomma, di tutti i giorni calpestata, come, insomma, i tagli che vengono fatti in questo, in questi momenti, insomma, con quello che è il decreto Salva Roma, quello che sarà, che vorrebbero, insomma, attuare, così come il piano casa, così come il piano rifiuti, e quindi sommergere la nostra città, insomma, di cemento, nocività, e tagliare, insomma, su tutto quello che invece va in risposta ai bisogni. E questo è quello che domani, in questa giornata di festa, ma anche di lotta, di riapprovazione, come abbiamo detto, verrà, insomma, così ci si rappresenterà in maniera festosa, comunicativa e determinata. Sì, fra l'altro, appunto, resistenza, tu dicevi, alla speculazione, alla cementificazione, resistenza alle politiche dei tagli, all'austerity, resistenza per reddito e casa per tutti, insomma, in un momento anche di forte attacco ai movimenti, parlo dell'articolo 5 del piano casa, parlo anche degli sgomberi violenti che ci sono stati negli ultimi tempi, parlo anche, non so se hai avuto modo di vederlo, del fatto che stamattina il Tempo, il giornale di Roma, dedica 3 pagine alle occupazioni romane, la prima, la seconda e la terza pagina, fra l'altro facendo una specie di lista dei bersagli da colpire, mettendo una lista molto lunga di più di 100 indirizzi di spazi occupati e occupazioni abitative. Insomma, un momento piuttosto complicato e caldo. È un momento complicato, caldo, l'attacco è evidente ed è per questo che si parla di resistenza oggi. Ieri era, appunto, lo stato fascista corporativo, oggi sono i stati democratici sotto il diktat, insomma, della troica, dell'Europa, insomma, unita economicamente, ed è questo quello che ci aspetta, quello che si fa quotidianamente, appunto, sui territori. Domani si parla, cioè si attraversano questi quartieri, ma le vicende riguardano, appunto, tutta Roma e non solo. E, è evidente, insomma, il Tempo, ma così come il Messaggero, così come tutti gli organi della stampa, insomma, padronale, borghese, che stanno lì a costruire teoremi o comunque ad affermare, insomma, quella che per loro è una legalità che poi va a privilegiare insomma, gli interessi a discapito di quello che sono invece le esigenze e i bisogni di chi vive queste città, di chi le abita, e una legalità che poi invece viene completamente disconosciuta per quanto riguarda, ecco, questo territorio dentro la città di cui si necessita per un fabbisogno di verde, di spazi gratuiti, di socialità, che dal 2004 sta lì e ci hanno provato a fare 2 speculazioni non indifferenti, prima i mondiali di nuoto, le piscine e poi i grattacieli. Quindi è su questo, nel Messaggero, nel Tempo, ha speso sicuramente nulla. No, così sicuramente. Gli sprechi della metro C, questo è un territorio, quello che andremo a attraversare domani, dove ci sono diverse, insomma, fermate della metro C, tutti gli sperperi fatti, li sappiamo benissimo, ma con opere compensative che dovevano andare appunto a compensare il disagio per oltre un decennio dei cantieri aperti, che sono stati tutti tagliati, tutti i fondi previsti per realizzare quelle che così venivano messe come specchiette a lodole, piazze, giardini, sono scomparse completamente. Gli unici fondi che sono rimasti lì da parte del Ministero sono per fare parcheggi, dove si è fatta una fermata della metro, quindi incentivare ulteriormente, insomma, il trasporto su mezzo privato come la macchina, e PUP, quindi mercato immobiliare e centri commerciali. Insomma, questo è comunque il piano su tutta Roma, e questo è il piano, insomma, su questi territori, che poi, appunto, come dicevo, i servizi sociali come i consultori, le ASL e quant'altro, le scuole che cascano a pezzi, gli asili che non sono assolutamente sufficienti e il prossimo anno saranno ancora meno, e non vedono, insomma, risposte concrete. Questo è un po' il quadro, e è questo quello che, insomma, domani si andrà a dire, e, insomma, riconoscendosi nelle piazze come, come soggetti attivi, perché oggi fanno la resistenza, oggi praticano liberazione ogni giorno, e così come liberazione per l'autodeterminazione, anche questo è un tema, insomma, rispetto alla, a tutte le politiche che vogliono sulla, sulla pillola del giorno dopo e quant'altro, insomma, restringere anche qui, insomma, le libertà personali. Sì, come poi è un tema il fatto appunto che compagni e compagne sono in carcere o sotto processo, insomma, cogliamo anche l'occasione per salutare Chiara, la compagna che sta a Rebibbia e che forse ci sente da, da questi microfoni, per, insomma, che è un altro dei temi, insomma, di questo 25 aprile, insomma, la repressione, quella, come dire, fatta coi mezzi classici, la galera e i tribunali. Anche qui, insomma, il segno è evidente, l'abbiamo visto in piazza, l'abbiamo visto anche in questi giorni quando si propagandava il corteo, insomma, attraverso attacchi nazisti, dicendo il clima è chiaro e appunto liberi tutti e tutte, era una delle parole d'ordine, e la vicinanza, la solidarietà, la complicità con chi è stato arrestato sarà, insomma, è manifestato, così come lo slogan, insomma, di apertura è la lotta ieri come oggi, la lotta è una, e Roma Est parla di Nottav, parla di Nomos, parla di, insomma, tutto quello che in Italia si muove in contrapposizione con questi progetti criminali e, insomma, di sopraffazione. Senti, è il secondo anno che si fa questo corteo a Roma Est, insomma, ce lo ricordiamo anche l'anno scorso, un corteo che vede, insomma, insieme tutti gli spazi sociali di questi quartieri, è anche un modo per, appunto, per riprendersi i nostri territori e per uscire un po' dall'etichetta della memoria come cerimoniale, no? Delle celebrazioni del 25 aprile che vogliono lasciare la memoria al passato e senza viverla nel presente. Mi sembra questo fatto di fare il corteo tra Centocelle, la Prenestina, il Pigneto, sia un modo per uscire, appunto, come stavi tu dicendo, con una resistenza che è attuale, attiva. Sì, sì, è un riconoscersi nelle, insomma, in quelle che sono state le vicende di chi allora ha messo in gioco i propri corpi contro, insomma, un impianto che era repressivo, che vigeva, insomma, per portare a termine comunque quello che, insomma, degli intenti capitalisti di sfruttamento, di segregazione, di razzismo e quant'altro, e ha messo in gioco la propria vita, e questo noi lo teniamo ben conto ed è, insomma, il nostro punto di riferimento, ma senza cadere né nella retorica e né tantomeno, insomma, in una celebrazione fino a se stessa, ed è da lì che, insomma, in questo riconoscimento che si parte per affermare, appunto, come si diceva, che la liberazione non è mai arrivata in qualche modo, e quindi la liberazione è ogni giorno e vive nelle lotte sociali. E come dicevi, insomma, questo corteo che l'anno scorso proprio su questa parola d'ordine insomma si è convocato per la prima volta, quest'anno ha allargato i suoi orizzonti, ha anche articolato, diciamo, un discorso, e queste lotte sociali saranno ben evidenti, appunto anche con un obiettivo concreto e pratico, che è quello di riappropriazione di un luogo, insomma, che verrà vissuto in quella giornata, per liberarlo definitivamente. Senti, vogliamo poi continuare, insomma, a raccontare quello che succederà anche il 25 sera e poi il 26, visto che si parla di una o due giorni e non soltanto perché sia poco, insomma, del corteo di domattina. Sì, questo in realtà, insomma, è poi la festa. Arrivato il corteo si svolgerà, insomma, nel lago con grande, insomma, partecipazione, si pensa, ci sarà musica, insomma, così si mangerà, si farà picnic in questo luogo, e almeno per tutta, insomma, la giornata con il sole alto. E mentre la sera, la due giorni, riguarda le realtà del Pigneto, insomma, del 25 aprile che da 13 anni si organizza. Ci sono altre, sappiamo, insomma, nella città, altre iniziative come a Casa Albertone, a Parco degli Acquedotti e a Quarticciolo quest'anno anche, e al Pigneto appunto la 13ª edizione. Si partirà dalle 7 proprio perché, come a differenza di tutti gli anni, dopo il corteo, insomma, si finiva in piazza direttamente, quest'anno partiremo dalla sera. Ci saranno, insomma, anche lì concerti, e il dibattito quest'anno sarà fatto lì sul lago, su tutto quello che abbiamo finora detto, una chiacchierata così tra chi, gli interventi di chi ha partecipato, ci sarà un momento per l'acqua, insomma, i lavoratori e quant'altro. E mentre appunto la sera ci sarà questo concerto con vari insomma artisti, così, cantanti, gruppi, la Pigneto Orchestra, Banda Iorona, la Menestrella Femminista, e un collettivo, insomma, hip hop militante di The Real Roma e tanti altri. Mentre il giorno dopo, sabato, ci sarà comunque in piazza una discussione su quello che è uno dei problemi, appunto, che questo, insomma, questo impianto che abbiamo, insomma, condiviso e porterà, insomma, al centro della riflessione, che è quello dell'attacco di mercificazione del commerciale immobiliare al quartiere Pigneto, ma non solo, insomma, a San Lorenzo e quanti altri. E quindi si parlerà di gentrificazione, si parlerà, insomma, di aggressività del narcotraffico, si parlerà di lavoro in questi quartieri dove c'è un'economia, insomma, forte, e quindi c'è anche un livello di lavoro che si guarda quasi, insomma, esclusivamente per questi locali giovani, giovanissimi, immigrati e quant'altro, che si basa per lo più su un forte sfruttamento, dove poi i flussi di denaro sono tanti e questi flussi di denaro comunque vanno a influire sulla qualità della vita di chi ci abita, insomma, si innesca poi una guerra tra poveri, e questo, insomma, è quello che vorremmo affrontare, non soltanto, insomma, concludendo una discussione, ma portando, insomma, così, a fuoco, mettendo a fuoco alcuni elementi che poi verranno articolati nei mesi prossimi, insomma, anche attraverso i microfoni della radio abbiamo affrontato queste discussioni, e c'è l'intenzione poi di portarle in piazza, e a partire dal 26 e poi, insomma, in altri giorni. E anche il 26 si parlerà anche di teatro, ci sarà lo spettacolo La Banda del Gobbo, e il concerto della Refectory Das Bell, e, insomma, un gruppo rock di Centocelle, e gli studenti, insomma, del coordinamento degli studenti, che sono tra l'altro il soggetto che l'anno scorso ha lanciato il corteo con grande, insomma, entusiasmo, e oggi. E tra gli altri, insomma, anche questa radio, insomma, che manderà dai microfoni il corteo di domattina, ma che sarà anche in piazza, insomma, in questo 25 aprile. Esatto, sì. Lo dicevo appunto, che cercando di, sarà, come dire, di intrecciare e trasmettere parole. E sarà, insomma, appunto, la volontà è proprio quella di insomma, far intervenire dalla piazza e dall'etere, far interagire punti di vista anche su quello che rappresenta il 25 aprile, ma quello che rappresenta quello che stiamo vivendo, come tu dicevi, insomma, questo attacco ormai manifesto e chiaro. Senti, noi ti ringraziamo, e l'appuntamento, lo ripetiamo, è per domattina alle 9:30, ed è un appuntamento vero, non è appunto uno scherzo, perché, ti ripeto, abbiamo avuto almeno un paio di telefonate e ci chiedeva se l'orario era... Sì, è un appuntamento vero. Poi naturalmente il corteo, cioè, lì si aspetterà, insomma, che i numeri siano, insomma, praticabili per partire, però non partiremo assolutamente tardi, perché appunto il percorso è lungo e si vuole arrivare a un orario decente, insomma, a Largo Preneste, e quindi dico il percorso, così chi, insomma, non si sveglia così presto. Ma ci svegliamo tutte e tutti, però tu dillo il percorso. Piazza delle Camelie, Via delle Camelie, Via dei Castani, che passerà per Piazza dei Mirti, Piazza dei Gerani, dove c'è il capolinea, insomma, dei tram, quindi chi vuole raggiungere lì il corteo è facilitato, e poi si arriverà fino a Via del Pino, e da Via del Pino si scenderà verso Via Tordeschiavi, la si attraversa, Via Nagni, Largo Agosta, un'altra piazza, insomma, dove ci fermeremo nella comunicazione, e si proseguirà verso Via Teano, dove c'è una delle fermate della metro, insomma, incriminate, come dicevo prima, e da lì, insomma, si prenderà la Prenestina, si arriverà a Largo Preneste. Benissimo, e senti, noi ti ringraziamo, ti chiediamo per cortesia di rimanere un attimo in comunicazione anche fuori dalla linea radiofonica. Sì. Ultima cosa, da Largo Preneste si andrà a salutare Casa Albertone e dietro Fronte per ritornare, insomma, di entrare al lago e liberarlo. Ecco, questa era, insomma, la conclusione. D'accordo, abbiamo visto anche, c'è la mappa, insomma, sul sito della SNIA, quindi possiamo andarla a rivedere e niente, insomma, ti ringraziamo e ci vediamo domattina in piazza. Salve. Ciao. Ciao. Pronto. Porfirio Villarosa, che faceva il balla balla la biscotta.